Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Animo, animo e forza, cari ascoltatori, che la 123esima settimana decisiva per abolire le province finisce oggi. È venerdì. È venerdì e allora la 124esima potrebbe essere quella decisiva. Settimana prossima staremo, come al solito, a vedere con fiduciosa attesa. Allora, anche oggi andremo avanti fino alle 9.30 per parlare del caso Scattone. Ebbene sì, parleremo del caso Scattone, che rinuncia alla cattedra. Tra poco leggerò qualcosa anche in rassegna stampa. Ma parleremo anche, per quel che riguarda la scuola, di quel caso dei due genitori. Ieri sui giornali se ne parlava. Genitori che hanno avuto un figlio morto qualche anno fa, un figlio di 22 anni, e vogliono avere il tema di maturità, che però viene negato loro dalla burocrazia. Cercheremo di capire se davvero è così con il preside della scuola dove questo ragazzo ha frequentato e ha fatto la maturità. Parleremo di questo, ma di anche altri temi. Parleremo dell'immigrazione, parleremo di caccia alle marmotte. Ma sì, non sorridete. In Trentino vogliono abbattere migliaia di marmotte. È una cosa illegale, però è un decreto d'urgenza perché le marmotte fanno male all'agricoltura. Ricordate la vicenda dei cinghiali? E adesso le marmotte. Ne parleremo dopo le 9, eh? Ora andiamo a leggere i giornali. Allora, è venerdì 11 settembre, i titoli, il Sole 24 Ore apre su Brasile declassato a junk, cioè spazzatura, secondo il giudizio di Standard & Poor's. Pechino apre sullo yuan, questo il titolo di prima pagina. L'immigrazione ancora tiene banco sugli altri quotidiani. Per il Corriere della Sera, Russia in Siria, tensione nei cieli, quindi più il fronte militare in Siria. Repubblica invece, Austria un altro no. Renzi sui profughi, serve una svolta europea. Renzi che scrive una lettera che viene pubblicata da Repubblica, poi la leggeremo. La Stampa, l'Europa apre i confini per accogliere chi fugge dalla guerra in Siria. È un'intervista e sono parole del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Per Avvenire, i treni a singhiozzo dell'Europa solidale. Profughi in marcia, nessuno va a prenderli. Gli altri temi invece: Libero, la rivincita della casta, i fondi segreti ai partiti. Per la prima volta in 70 anni Renzi e il PD hanno abolito l'obbligo di rendere pubblici i finanziamenti alla politica. Il Fatto Quotidiano invece: il governo nelle mani di Alfano. Faremo il ponte sullo stretto, riesumato il progetto di Berlusconi. Queste alcune aperture, poi ne vedremo le altre anche per il giornale Politica. Salvini dice a Berlusconi pronto alla lista unica. Insomma, come vedete, tra immigrazione ma anche politica interna sui giornali italiani. Il caso Scattone, appunto, Giovanni Scattone, ex ricercatore alla Sapienza, accusato e condannato insieme al complice Ferraro di aver ucciso Marta Russo, ha scontato il carcere, lo sapete, anche se si è detto sempre innocente, ha scontato la pena. E poi le polemiche ogni qualvolta è stata assegnata una cattedra. Adesso che è stato immesso in ruolo, le polemiche per la legge, l'abbiamo detto tante volte, non c'era nulla di male, nel senso che non c'era l'interdizione a insegnare e quindi poteva farlo, ma le polemiche sono state sul fatto, insomma, può insegnare ai ragazzi uno che ha ucciso una ragazza, perché questo dice la sentenza. Eccolo qui, Giovanni Scattone sul Corriere della Sera e su Libero rilascia due interviste. Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera, pagina 18, parlo tre lingue, sono coraggioso, ora potrei fare l'imbianchino. Non tornerò più indietro, la mia decisione è presa per sempre, con l'insegnamento e con la scuola ho chiuso. È una parentesi della mia vita che si chiude con troppe polemiche, insegno da 10 anni e a ogni inizio è la stessa storia, basta. Sono stufo. Certo, mi dispiace, è un salto nel vuoto, rinuncio a un lavoro sicuro, 900 euro al mese ci avrebbero fatto comodo, ma per fortuna sono un tipo coraggioso. Senta, la mamma di Marta Russo dice che è stata fatta giustizia e che lei è soddisfatta. Va bene così, la rispetto, non dico altro. Contenta lei, contenti tutti. E che farà ora? Sinceramente non so, scherzando potrei dire che ho appena finito di tinteggiare le pareti del corridoio di casa. E non son venuto male, magari farò l'imbianchino. Comunque conosco tre lingue, francese, inglese, spagnolo, potrei fare traduzioni, correggere bozze, inventarmi ghostwriter, lavorare come storico in qualche istituto privato, ma ho quasi 50 anni e non sarà facile, forse cercherò qualcosa in Europa. Senta, ma lei secondo la Cassazione è l'assassino di Marta Russo, il passato non si cancella. Io non ho ucciso Marta Russo, risponde Scattone. Mi porterò sempre nel cuore la speranza che prima della fine della mia vita possa venire fuori la verità. In altri casi di cronaca è successo, la verità si è saputa anche dopo 30 anni. E poi conclude Scattone, in questo paese ex terroristi sono finiti in Parlamento, altri dopo aver espiato la pena oggi tengono conferenze, scrivono libri, eppure in tanti dicono adesso che io non posso fare l'educatore, che sono pericoloso per i miei studenti. Pazienza, la mia coscienza mi dice invece che potrei insegnare, ma purtroppo non c'è più la giusta serenità. E così anche su Libero il titolo dell'intervista di Brunella Bollioli è "Così mi tolgono il diritto al lavoro". Su Libero dice "Dall'Italia non scappo", al Corriere dice "Forse vado in Europa". Comunque il momento non è certamente facile anche per lui. E quindi anche dichiarazioni che paiono anche contrastanti tra un giornale e l'altro. Questa è la vicenda Scattone che comunque affronteremo, avremo il suo avvocato ospite alle 8.15 insieme ad Alex Corlazzoli, il nostro cicerone nel mondo della scuola. Voglio saltare a un'altra intervista, la vicenda Marino. Ieri Marino, non so se avete visto, la Lilly Gruber si è presentato, è stata un'intervista anche abbastanza tesa in alcuni punti, come quando Marino ha detto alla domanda di Lilly Gruber da quanto non sente al telefono Matteo Renzi, non rispondo perché non mi pare una domanda intelligente. Detto che non esistono domande intelligenti o stupide, ma domande che fanno i giornalisti. Nessuna domanda è stupida, peraltro. Però Marino è legittimato a non rispondere, non certo però a dire che non è una domanda intelligente. Comunque, al di là di questo, e se lo volete potete andare anche a cercarla e rivederla, è un Marino che ha detto che è andato in America per girare senza scorta, ha fatto 14 giorni di ferie. Su questo io sono totalmente d'accordo con lui. Che problema c'è a fare 14 giorni di ferie? Io ho fatto 5 settimane. E quindi Ignazio Marino dice: volevo 14 giorni con mia moglie e mia figlia senza girare con la scorta perché ho subito minacce, quindi siamo andati in America. Non ho alcun problema di sorta e non ho nulla da rimproverarmi. Ma Bruno Vespa, che è stato attaccato duramente da Marino sulla stampa, Marino addirittura ha detto che guardare porta a porta si fa peccato e bisognerebbe confessarsi. Ecco che allora Bruno Vespa risponde sempre sulla stampa, intervistato da Mattia Feltri. A pagina 11, Marino chiede la mia testa perché teme la sua. Teme per la sua. Porta a porta. Ma qual è il problema? Gli italiani, o meglio i romani, si sentono più offesi dalla trasmissione o dalle condizioni in cui si trova la città, secondo voi? O dal fatto che i vigili urbani sono intervenuti in forza al funerale di Vittorio Casamonica non per staccare manifesti blasfemi, ma per regolare il traffico in tilt? Comunque, i magistrati facciano un bel processo per mafia ai Casamonica e noi facciamo un'altra trasmissione. Si dimenticano tutti che i miei due ospiti sono incensurati e che al loro padrino non è mai arrivato nemmeno un avviso di garanzia per concorso esterno, reato che non si nega in Italia a nessuno. Riguardo a Marino, dice: auspica la rottamazione mia? Beh, ma auspicare la rottamazione degli altri per esorcizzare la propria può essere un buon esercizio di treni in autogeno. Negli Stati Uniti Marino avrà visto celebri anchorman durare decenni e anche da noi ci sono esempi luminosi. Il pubblico sceglie, ma è l'editore che decide. E poi ancora su Marino, la storia ci insegna che quando un leader è in difficoltà cerca di dirottare l'attenzione del pubblico su un bersaglio alternativo. Questo Bruno Vespa, che dice, aggiunge: mai ricevuta tanta solidarietà da quando mi dimisi dal TG1. Professionalmente io mi sento con la coscienza a posto. E vabbè, chiudiamolo qui, dai, la questione Bruno Vespa direi proprio che la possiamo chiudere. Mi colpisce invece la notizia che c'è su Repubblica riguardo al cinema italiano e una decisione che è allo studio del governo. Ne scrive Aldo Fontanarosa a pagina 17, film e fiction in crisi, il governo batte cassa con Google e Netflix. Che succede? Succede che i colossi del web, secondo il governo, dovranno finanziare il nostro cinema. Alt dunque alle deroghe. Il governo Renzi, scrive Repubblica, vuol mettere nuova benzina, nuovi soldi dentro il serbatoio dei nostri produttori indipendenti di film e fiction che sono in riserva. Il carburante, insegnano i tedeschi, che hanno avuto l'idea per prima, può arrivare dalle aziende più effervescenti ma anche più privilegiate del pianeta. A finanziare il nostro cinema e le nostre fiction saranno dunque i giganti di internet, gente come Google, Amazon, Netflix, che è la TV via cavo attesa qui in Italia ad ottobre. La parola magica, cioè tassa di scopo, è scritta nel documento sul rafforzamento del settore audiovisivo che il ministro Franceschini e il sottosegretario Giacomelli hanno presentato alle nostre TV e alle associazioni dei produttori questo lunedì. Dunque, come in Germania, dove i giganti della rete verseranno allo Stato una fettina del fatturato che realizzano nel paese. Questi soldi saranno poi investiti per il 70% nella produzione di film e fiction tedesche e nella loro distribuzione attraverso canali classici. Il 30% invece verrà investito nella loro promozione in rete. Vorrà fare l'Italia così come in Germania? Per le televisioni invece ci sono discreti sacrifici all'orizzonte, scrive sempre Repubblica. Le emittenti non potranno più sperare in deroghe ai loro obblighi di produzione e programmazione di opere indipendenti. Dovranno poi sfruttare il film che acquistano, mettiamo, entro 3 anni, pena la perdita dei diritti. Questa norma è molto controversa, magari anche un po' complicata da capire per non addetti ai lavori. Comunque, l'idea è questa: il film italiano in crisi si vuol fare come in Germania. Si prende, si fa una tassa di scopo e si prende un po' di soldi ai proventi di Google e Netflix, per citare due colossi del web, e si investono invece su altri canali. Ma eccola qua. Questa donna favolosa è molto carina dalla foto, ma guai a dirle favolosa perché si arrabbia molto. È l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, perché è l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. Sei favolosa e l'avvocata denuncia il collega. Succede a Londra, dove l'avvocato, ecco, meglio, nella didascalia, Charlotte Prodman, 27 anni, si vede ricevere da un collega avvocato con cui è connessa attraverso il sistema LinkedIn questo commento. Charlotte, non sarà politicamente corretto, ma la foto del tuo profilo è favolosa, mai vista un'altra così. A mani basse vincerebbe il primo premio. E Charlotte Prodman risponde a questo impertinente avvocato: il tuo messaggio è offensivo, sono collegata per lavoro e non per essere trattata come oggetto da uomini sessisti. Il caso diventa pubblico e da qui la denuncia e la querela per sessismo. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. E allora Milan, a nemica ora che ti mette l'esor i giornali. In tal poler, i gale e i galenni, imbedesi da 3 ore, va Femma! Va bene tutto, va bene così. Però se ci dite anche bene il dialetto, di che area geografica è, piemontese, mi dicono, così noi siamo anche meno spiazzati. Ma straordinari i nostri ascoltatori che ci mandano le sigle in dialetto, allo 024652 4492, è la nostra segreteria telefonica. Allora, torniamo sul tema immigrazione che anche oggi è sviluppato sui giornali. C'è Matteo Renzi, presidente del Consiglio, che scrive una lettera al direttore di Repubblica, viene pubblicata a pagina 2. Caro direttore, all'improvviso tutti, ma proprio tutti, si sono accorti di ciò che stava accadendo. Fa questo esempio Renzi: è come quando stai guardando un film sull'iPad, ma hai le cuffie e dunque solo tu stai vedendo e sentendo ciò che passa sullo schermo, ma all'improvviso ti staccano le cuffie e tutta la stanza è improvvisamente invasa dal rumore. Allora non sei più solo, ma questo non è un film, sono donne, bambini, anziani, uccisi, affogati dai trafficanti di uomini. E allora ecco le proposte in questa lunga lettera di Renzi. L'Italia sa che ora bisogna muoversi. Occorre più visione nella politica estera, scrive Renzi. Diciamo le cose come stanno, la comunità internazionale e l'Europa hanno sottovalutato il peso delle proprie iniziative in Libia e Siria. È anche però, e qui è il cuore della proposta che lancia il Presidente del Consiglio, è anche arrivato il momento per l'Europa di fare un focus sul Mediterraneo e occorre infine superare la logica dell'egoismo nazionale e dunque superare Dublino. Giusto che gli hotspot siano gestiti a livello europeo, ma ciò sarà possibile solo se ogni paese accoglierà un certo numero di ospiti, cioè quote, e i rimpatri per chi non ha diritto di asilo verranno organizzati dall'Unione Europea e non dai singoli stati. Dunque Renzi lancia questa idea, il titolo è proprio di Repubblica, il trattato di Dublino ora va ricambiato. Il trattato di Dublino è quello per cui se una persona immigrata arriva in un territorio e chiede di essere riconosciuto profugo, deve rimanere in quel paese, in quel territorio, finché la sua domanda non viene o accolta o rigettata. Questo, dice Renzi, non va più bene. C'è invece un approccio più stupido, ecco dai lo dico, più stupido del dibattito che si è scaturito in questi giorni e esonda sui giornali del voi li accogliereste a casa vostra. Oh mamma mia, che approccio riduttivo a dir poco, stupido è meglio, però il Corriere adesso fa una pagina, Morandi e gli altri, Gianni Morandi che ha detto sto pensando di aprire casa mia, Bono vuole aprire casa sua, tutti partono dal premier finlandese che ha detto do una casa a disposizione, poi certo le parole del Papa, però questo è l'approccio più banale, pensa di risolvere il problema, dice, a casa sua, anche Salvini ci si è messo, ad Agorà ieri alla domanda ma lei lo accoglierebbe un profugo? Sì, ho un bilocale però lo accoglierei, e deve rispiegarlo Salvini a Repubblica, a Libero, eccolo qua, pagina 1 e prosegue a pagina 4 di Libero. Profugo a casa Salvini ma col trucco, dice Salvini, io mi stupisco dello stupore, dice così a Libero. Ho sempre detto che i profughi vanno accolti, scandisce così Salvini. Cioè, quelli che scappano dalle guerre vanno accolti, anche se non sono Bono o Gianni Morandi e non possiedo ville o parchi. Eppure la sua dichiarazione ha spiazzato. Mi stupisce lo stupore. Siamo leghisti, non abbiamo mai mangiato i bambini o fatto sgambetti ai profughi che cercano di scappare. I profughi vanno accolti, ma con la stessa chiarezza dico che tutti gli irregolari devono essere espulsi. E poi aggiunge Salvini, guardi, casa mia è un casino, faccio fatica a viverci, ho un bilocale, quindi ho confermato un principio e aggiungo che mi piacerebbe che qualcuno si occupasse anche dei 4 milioni di italiani disoccupati. Questo è Matteo Salvini e questo è il dibattito. Il Fatto Quotidiano addirittura rispolvera una vecchia questione, il fatto che Salvini abbia comprato una casa in Viale Bligny a Milano, in una zona, in un appartamento, in un condominio considerato in passato anche per varie inchieste giornalistiche il fortino della droga, Viale Bligny 42. E allora scrive il Fatto, metta a disposizione l'appartamento vuoto che potrebbe così dare all'immigrato. Ecco, il dibattito è sceso a questi livelli in Italia. A proposito di sgambetti, beh, l'immagine oltraggiosa di quella giornalista ungherese che il reporter ungherese che è stata licenziata dalla sua TV che ha sgambettato un profugo e veniva inseguito dalla polizia. C'è un'altra foto, anche questa oltraggiosa, vergognosa, che circola. È un momento in cui le immagini stanno assumendo un valore incredibile. Sul Messaggero viene pubblicata a pagina 5, ma la trovate secondo me su internet. È la foto di un signore danese che sputa sugli stranieri. È immortalato dal telefonino di un'altra persona. Dopo lo sgambetto della giornalista ungherese, il nuovo scatto che gela l'opinione pubblica europea arriva da Rødby, in Danimarca, dove c'è un treno di profughi che passa, i profughi che scendono, e la foto che ha fatto subito il giro del web mostra un uomo qualunque della cittadina, mentre sputa su alcuni migranti per disprezzo, immortalato da una signora con il telefonino. A proposito di invece Siria, dove ci sono dei movimenti, la Russia ha mandato dei tecnici a supporto di Assad, si parla di movimenti militari, di opzioni militari. Vi segnalo l'intervento di Bernard-Henri Lévy, intellettuale francese, scrittore, anche politico. A pagina 6 del Corriere della Sera è un intervento molto interessante sull'ISIS. Ecco perché l'ISIS perderà. Una decina di giorni fa, scrive Henri Lévy, mi trovavo con i peshmerga curdi davanti agli uomini dell'ISIS. Con una troupe televisiva ho percorso un lungo tratto dei 1000 chilometri di linea del fronte. E dico che l'ISIS sarà sconfitto. Saranno sconfitti perché sono buoni terroristi ma pessimi soldati, perché fanno i gradassi davanti all'obiettivo quando si tratta di sgozzare ostaggi indifesi, ma scappano come conigli davanti all'avanzata di un esercito popolare che rioccupa 200 km quadrati di territorio. Saranno sconfitti perché per lo stesso giorno, in località Tel Bussel, alcune telecamere li hanno visti arretrare disordinatamente dopo aver fatto un numero limitato di vittime tra i peshmerga. Saranno sconfitti perché, contrariamente a quanto sempre si ripete, non amano la morte quanto i curdi amano la vita. Saranno sconfitti perché sono meno numerosi di quanto si creda. Mentre i curdi difendono al tempo stesso una terra e un'idea. Saranno sconfitti perché di fronte ad un esercito sempre più professionale, ma composto da uomini e donne di ogni età, ogni condizione, ho incontrato anche un peshmerga che aveva addirittura 80 anni. Ecco, questa è la considerazione di Bernard-Henri Lévy, il perché saranno sconfitti quelli dell'ISIS, così almeno sul Corriere della Sera. Ma è il momento di Mauro Meazza, è il momento degli auguroni finali, è il venerdì. Ecco, vabbè, salutiamo la capolista, cioè il Chievo, e salutiamo anche Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno. No, aspettavo appunto questo saluto ufficiale prima di... Intanto ti vorrei ringraziare di avermi accostato addirittura da Henri Lévy, e questo sì, mi inorgoglisce. O il peshmerga curdi, il nostro peshmerga Mauro da Meazza. Da parte tua veramente mi ha turbato. Comunque anche io ti faccio i miei migliori auguri per domenica sera, naturalmente. Tra l'altro domenica c'è tutto un palinsesto nuovo a Radio 24, sì, quindi è vero. Ci possiamo collegare subito al mattino per il nuovo palinsesto. Ne parliamo anche sul Sole 24 Ore, lo spieghiamo in dettaglio, quindi rimandiamo per tutti i dettagli al Sole 24 Ore, nelle pagine di Impresa e Territori. Oh, ti raccontiamo anche, proprio in Impresa e Territori, che riparte la ricerca del petrolio in Sicilia. Oh, però, ci saranno già dei comitati contrari. Beh, ci sono, chiedo scusa, un po' di difficoltà, lo racconta Jacopo Giliberto, però devi sapere che ci sono stime anche confortanti sulla quantità di petrolio che sarebbe disponibile nel territorio italiano. Ti spieghiamo tutto nelle pagine di Impresa e Territori. Oh, e poi naturalmente ieri è stato deciso dal governo questa attuazione delle norme comunitarie sul bail-in. Yes. Bail-in. Yes. Parliamo di banche. Certo, di banche. Ecco, salvataggio di banche. Salvataggio delle banche, salvataggio di tipo interno, cioè con la chiamata in causa di obbligazionisti, depositi sopra i 100.000 euro, eccetera, eccetera. Ma nelle pagine di finanza di oggi, del Sole 24 Ore, trovi tutte le indicazioni. Si parte dal 2016. Praticamente il senso è che gli stati fanno prima intervenire alcuni azionisti e obbligazionisti delle banche, e poi successivamente ci sarà la parte pubblica, se la banca naturalmente non va bene. Il Ministero dell'Economia, caro Alessandro, ha gelato le aspettative di proroga sulla voluntary disclosure, come dice il nostro amico Angelini. Purtroppo si aspettava una posizione, diciamo, più mediata, e invece l'ha toccata piano. Non risultano iniziative per la proroga del termine del 30 settembre. Norme e tributi ti spiega tutto oggi. E sarei contento di sapere, tu che sei attento alle cose dello Stato, le province e quant'altro, sì. Abbiamo un piano per tagliare 3.000 o più di 3.000 partecipate su 8.000, ma piano Cottarelli, piano Cottarelli. Nel 2016, e già nel 2016 si vuole tagliare 3.000 partecipanti. Addirittura già nel 2016, è incredibile. Non se ne mai guarda parlato, che rispetto a certi tempi, scusa, quante settimane sei arrivato con l'abolizione della provincia? 123esima. Ecco, questo. Vedi che ho ragione io a dirti già nel 2016. Già nel 2016, è alle porte. Va bene. Ricordati che oggi con il Sole 24 Ore c'è How to Spend It, che è il nostro mensile che compie un anno. Auguri! Quindi è il numero di anniversario, un numero particolarmente importante, e soprattutto sarà particolarmente importante chiaramente la domenica di Radio 24, ma anche la domenica di Alessandro Mina, secondo me. E un'ultima cosa, sappi che il viaggio tra casa e il cliente è considerato lavoro, parte del lavoro. L'automobile è lavoro. L'ha detto la Corte UE. Perché ti parlo di automobili proprio adesso? Chissà perché. Non lo so. Saluta la capolista e traffico! La parola ti dico così. A saluto il signor Milan, gran giornalista. E lese il notissi con gran disinvoltura. E lese culibonni, mo anche della tridura. L'invida gli ospita, gli è trata con premura, mo si sarbecon e il mega mega paura. E siamo Alessandro, l'en giornalista da bo, e fra i suoi colleghi le mighe il pucoio. Va bene, le rime baciate non sono male, da Parma, grande, grandissimo, caro amico e caro ascoltatore. Allora, voglio leggere alcune cose in chiusura sul decreto bail-in, cioè il salvataggio interno delle banche. C'è questa anche anticipazione del Corriere della Sera, ovviamente è un'ipotesi allo studio, che coinvolge la tassa di soggiorno. Voi dite, ma che c'entra la tassa di soggiorno? Sì, una delle ipotesi è questa, spunta il rincaro della tassa sui turisti. Ebbene sì. L'ipotesi di una stretta sul versamento, sapete che c'è la tassa sui turisti che dovrebbe, in questo momento viene raccolta da 650 comuni, neanche uno su 10, scrive Lorenzo Salvi a pagina 3 del Corriere della Sera. Ebbene, si pensa, il Corriere della Sera, ad aumentare questa tassa. Per il momento nelle casse dei sindaci porta 270 milioni l'anno, briciole in un'epoca di tagli, e dunque una tra le ipotesi allo studio è quello di aumentare il tetto massimo, e cioè oggi è fissato a 5 euro, arrivare, con l'eccezione di Roma che può arrivare fino a 7, arrivare a un tetto più alto. Le tasse, la tassa di soggiorno. Ho un articolo molto interessante che trovo sul Giornale. Per la verità è stato lanciato dal Gazzettino di Venezia e viene ripreso in questo caso dal Giornale. Riguarda la cosiddetta staffetta generazionale, cioè la possibilità di fare un cambio, darsi proprio il cambio tra parenti in generale, tra genitori e figli sul lavoro. Il ministro Poletti ha detto che va rilanciata, ma è tutta una discussione. E allora c'è un'azienda molto importante italiana, Luxottica, che potrebbe anticipare in qualche modo le scelte governative. Questa è almeno un'indiscrezione uscita sul Gazzettino di Venezia. Il lavoro in eredità, Luxottica riscrive il welfare in azienda. Pagina 9 del Giornale, Antonio Signorini racconta: dove non arriva lo Stato potrebbero farsi avanti le aziende. Luxottica, leader mondiale nella produzione di occhiali, starebbe infatti proponendo ai suoi dipendenti questa soluzione, col vantaggio che a essere assunto sarebbe un parente di chi accetta il lavoro a tempo parziale. Cioè tu, lavoratore di Luxottica, accetti lavorare part time, nel frattempo noi assumiamo a tempo indeterminato un figlio. Certo, ci sono aspetti da studiare, l'azienda per ora non commenta, scrive il Giornale. C'è da capire da parte dei sindacati chi pagherà i contributi per chi dimezza il suo impegno in fabbrica. Altro aspetto da definire è il grado di parentela accettato per le assunzioni, ma certamente è in discussione, secondo i giornali, tutto ciò. Saluto anche gli amici di Periscope, siamo in diretta su Periscope da questo momento. L'Unità fa sapere, così come la Stampa in una pagina, che sono pochissimi gli insegnanti precari o ex precari che hanno rinunciato fino a questo momento alla proposta di assunzione in ruolo. Sono state fatte 8.700 proposte, già 8.200 hanno accettato. Solo 16 docenti finora hanno rifiutato il posto in cattedra. 16. Solo 16. 8.200 invece hanno accettato. Oggi a mezzanotte credo scade la possibilità di scegliere, quindi alla fine saranno certamente pochi le rinunce di insegnanti, anche quelli che dovranno spostarsi da un luogo all'altro dell'Italia. Dobbiamo saltare tutti questi articoli, li faccio vedere a Periscope per dire che li avevo selezionati, ma non c'è tempo, non c'è mai tempo qui a Radio 24 per leggerli. E allora eccoci qua alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina di Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano, che fa tutta un'analisi sociologica, antropologica, per meglio dire ironica, sulla tribù del check-in. Tutti coloro che vanno in aereo, i metallari, quelli che oltrepassano il metal detector con chiavi, coltelli, monili, i finestrinati, quelli che vogliono il posto al finestrino, i prioritari, quelli che non hanno il biglietto priority ma vogliono passare la fila, Andrea Scanzi! Ma chi se ne frega!